Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Che bello, inizia il caldo. Io me ne andrei in vacanza adesso e tornerei ad ottobre. Sì, è iniziato, però siccome sono freddolosa, a parte le mie fiammate di scalmane, ahimè, sono in quella fase di benvenuta nel mondo dei ventagli. Mia madre l'ha chiamato. Te ne avevo regalati un po', io ti ricordo. Sì, erano bellissimi quelli, ma ce ne sono ancora? Eh certo, brava, cioè, uno ce l'ho tutti sparsi per casa, in macchina, sul davanzale del Perché li avevamo presi a Bassano del Grappa? Ma che gliene importa la gente di ascoltare le nostre cose? Avanti. Ma i cani! Vaira, cosa ma stai cani, dicendo? Ma i cani! Ma i cani, avanti. Hanno le scalmane anche loro quando vanno in menopausa? Mi trovi in preparazione. Dove chiedono al veterinario? No, ti posso parlare subito di una cosa che ho letto sulla zampa.it? Sì. Cane abbraccia il proprietario ferito fino all'arrivo dell'ambulanza. Giuro, allora ragazzi, se voi che avete tenerezza. Sono le foto che mi hai fatto guardare, sì, prima. Se voi avete la possibilità di andare sulla zampa.it, vedete queste foto di questo cane. No, che veramente è commovente. Non ha lasciato per un attimo il fianco del suo padrone, stendendosi sopra di lui come se volesse abbracciarlo. Questo cagnolino è rimasto terrorizzato quando ha visto che il suo proprietario era caduto a terra, si è accasciato a terra. Questo succede in un giardino in Argentina. In pratica lui stava potando l'albero, ma è caduto da 3 metri, dalla scala, da 3 metri. Ha perso conoscenza e i vicini hanno chiamato l'ambulanza. Sì. Però il cane si è immediatamente precipitato lì su di lui, e guardare le foto è veramente pazzesco, perché il cane proprio si è sdraiato lì con le zampette davanti, è stato lì tutto il tempo, non l'amo, no, ma anche col muso, sai quando fanno col muso sulla... come per tenerlo, sai quando tu vuoi fregare il biscottino a Euphoria, il mio barboncino, sì, che fa che così. Allunghi la mano e lei allunga il muso per coprire il biscotto in modo che nessuno glielo veramente prenda, veramente una tenerezza infinita. Ma anche dice che anche quando i medici hanno prestato le prime cure, gli hanno messo il collare per evitare lesioni alla colonna vertebrale, il cagnolino ha continuato ad abbracciarlo e si è rifiutato di lasciare il suo fianco, tant'è vero che hanno avuto problemi quando hanno dovuto caricarlo in ambulanza. Sì, ci credo. Perché lui non vuole amore, non voleva lasciarlo. Beh, insomma, quello che fa tenerezza in realtà, a parte il racconto, è guardare l'espressione del cane mentre fa questa cosa. Andate, dov'è che l'hai preso? Dalla zampa.it. Grazie alla zampa.it per tutto il lavoro che fate. È un articolo del 18 maggio. È stato chiamato maggio, anche vedo. A parlarne in radio anche lì in Argentina della sua storia. Ci credo. Perché ci ovviamente credo. Questo cagnolino lui l'aveva salvato. E quindi è diventato suo compagno super fedele. Poi la storia a lieto fine, perché grazie a Dio Jesus, come si chiama il padrone del cagnolino, è sano e salvo, non si è fatto niente di grave. Tu pensa, allora, una domanda che faccio spesso nei miei corsi è questa: quante volte vi è capitato di star male fisicamente o emotivamente, moralmente, e il vostro cane se ne è accorto ed è stato lì tutto il tempo? Sì. Quasi tutti alzano la mano, anche in una sala di 100 persone. È interessante questo, perché ci fa comprendere come i cani si accorgano del nostro stato. Ma io mi ricordo che mia nonna diceva: sembra che se ne accorga, Rosì, sembra che se ne accorga. Sembra, che... non è che sembra, è che proprio infatti, se ne accorge. Infatti. Te lo legge palesemente in faccia. Non è un sesto senso, sai, di quelli quasi. No, è proprio che il cane sa perfettamente come tu ti senti. E allora è lì che sorge spontanea questa cosa qui. I cani sono dotati di empatia? Sì. Possiamo assolutamente dire di sì, per tanti motivi. È stato fatto uno studio, tra l'altro molto lungo, ricordo, da Gregory Burns, è uscito il suo libro in italiano Come i cani ci amano, ho avuto il privilegio di scriverne anche la prefazione. Gregory Burns ha fatto uscire dopo un articolo sul The New York Times dal titolo Anche i cani sono persone. Lui ha praticamente studiato attraverso la risonanza magnetica come il cervello del cane funziona quando sta facendo cose che il cane ama, che lui ama. Ma lui è quello che è riuscito a fare la risonanza magnetica al suo cane da sveglio? Sì, per poter vedere come reagisce il cervello, se sente l'odore di cibo, le reazioni che c'è al cervello, quindi a poter studiare in modo molto più approfondito. I cani sono diversi, ogni cane veniva addestrato, ecco, parlando di addestramento, che non è sempre fermo. Una cosa negativa, perché dipende da come insegni, il cane veniva insegnato a star fermo, in resta. Esattamente come per i bambini, i proprietari dei cani firmavano un documento con un consenso informato, e il patto era: se il cane da lì se ne vuole andare, è libero di andarsene quando vuole. Se invece si diverte, sta lì perché coopera e poi ha anche un premio alla fine, allora riusciamo a studiarne, a studiare come funziona il suo cervello. E quindi gli presentavano, che so, la pallina, gli presentavano diverse situazioni in cui il cane muoveva appunto tutta la sfera affettiva, sociale, empatica, e hanno scoperto tante cose interessanti. Fantastico. Il libro si chiama Come i cani ci amano ed è edito da De Agostini, quindi se volete, con la tua prefazione. Gregory Burns è l'autore. Sì, vabbè, ho scritto una breve allora prefazione. Oggi parleremo di una cosa interessantissima: Confido, quattro zampe in corsia, il primo progetto scientifico di pet therapy per pazienti con la SLA. Risultati e obiettivi. Adesso fra poco cercheremo, chissà quali risultati, sono curioso. Tra l'altro noi quando ne parleremo avranno appena da poco finito una conferenza stampa dove avranno appunto presentato questo progetto, che io trovo interessantissimo, ma poi sentiremo direttamente da chi ha avuto l'idea, che è Giacomo Caramelli, che è un direttore marketing in realtà, ma lui è appassionato talmente di cani che ha detto: ma possibile, non possiamo provare a fare, poi ce lo faremo raccontare meglio da lui. Ed è nata questa collaborazione appunto anche per i malati di SLA. È incredibile questa cosa della pet therapy, l'applicazione della relazione col cane, come sappiamo ha tantissime cioè la pet therapy veramente viene usata dai malati di Alzheimer, ai progetti didattici, no, per bambini, si dice nella pet per therapy, il bullismo, abbiamo intervistato il buddismo stavo dicendo. Quindi in questo grosso contenitore che pet therapy c'è veramente tanta roba. Questo qua non so se è il primo esperimento sulla SLA, ce lo faremo raccontare, ma è interessante che evidentemente, se hanno voglia di parlarne, avranno avuto dei risultati. Quindi è interessante pensare come la relazione col cane abbia dei risvolti così profondi. Come diciamo sempre, il motivo è che il bisogno di relazionarci al cane e agli animali in genere è innestato nel nostro DNA, cioè è un bisogno profondo. L'essere umano senza animali non è pienamente essere umano. No, ma tu prova a pensare a un mondo dove non esistessimo solo noi, non c'è nessun'altra specie animale che noi. Ma a parte il fatto che dobbiamo chiudere, Peter? No, un minuto. Un minuto dobbiamo chiudere? 30 secondi, cioè, per essere precisi, certo, no? Come preciso. Vabbè, lui ovviamente ci deve dare i tempi. No, dicevo che stavo dicendo, non mi ricordo già. Ho detto, pensa che noi è un mondo senza nessun'altra specie animale. Ecco, che gli animali non servono soltanto per mangiare, vestirci o andare a divertirci quando si va nei circhi. Io sai qual è la mia opinione su questo. Che divertimento. Non bisognerebbe andarci, assolutamente, è proprio qualcosa di immorale. Ma grazie a Dio sta antietico. Cambiando, in questo senso li stanno chiudendo un po' ovunque. È proprio il bisogno di relazionarci a loro. Noi siamo psicologicamente differenti se non ci relazioniamo agli animali. Siamo esseri umani invece più completi, che hanno sviluppato una piena dimensionalità e sono più felici se invece abbiamo una relazione con gli animali. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E il mondo della prospettiva animale. Tu hai sempre detto, Angelo, che noi siamo debitori nei confronti degli animali, nei confronti dei cani in modo particolare. Sì, prima a livello storico per la coevoluzione, adesso ancora di più per via della pet therapy di cui parlavamo poco fa, e adesso approfondiamo. Esatto, perché come vi ho detto prima c'è questo progetto Confido, quattro zampe in corsia, il primo progetto scientifico di pet therapy per pazienti con SLA. Risultati e obiettivi. E adesso noi abbiamo chiamato subito chi ha avuto l'idea di creare questa, di mettere in relazione alla pet therapy con i malati di SLA, che è Giacomo Caramelli, direttore marketing Mondo Vicino Outlet Village. Giacomo, ci sei? Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Ciao Giacomo, sei fresco di una fine di una conferenza stampa molto importante? Sì, abbiamo appena finito la conferenza stampa dove abbiamo presentato il progetto, i primi risultati, e abbiamo rilanciato. Senti, la prima cosa che volevamo sapere è: com'è che ti è venuta questa idea? Com'è che è nata? Beh, l'idea nasce, poi in effetti è un po' curioso perché noi, la nostra attività è completamente un'altra, però negli anni abbiamo sempre contribuito alla ricerca sulla SLA. Con la Fondazione Viale Mauro abbiamo fatto tantissime iniziative negli ultimi anni. E a un certo punto abbiamo detto: proviamo ad essere protagonisti proponendo noi qualcosa di nuovo che non è mai stato provato. E visto che noi comunque abbiamo attività legate ai cani all'interno del nostro outlet durante tutto l'anno, e avendo conoscenze in questo settore, abbiamo messo insieme un po' tutte le nostre conoscenze ed è nato Confido, grazie soprattutto a alla fondazione ASEA Onlus, che è specializzata in pet therapy da anni, e il centro clinico Nemo, Fondazione Serena, che poi ha fatto diventare la nostra idea un progetto vero e proprio. Senti, ma che tipo di attività fate voi con i cani di cui parlavi un attimo fa? Ma noi facciamo un evento, ormai è arrivato alla sua sesta edizione quest'anno, che è il Dogs Day. È un evento che porta tra le 2 e 3 mila razze di cani all'interno del nostro centro, e si svolge nel mese di luglio. Ma ho capito bene che cioè per centro noi intendiamo un outlet? Sì, sì, il nostro outlet village a Mondovì, in provincia di Cuneo. E quindi c'è il Dog Day, che quando è che si fa? Quando a, è luglio. Che... a luglio. Quest'anno sarà il 27, il 28 e il 29 di luglio. Ah, ok. E che cosa... tre giorni dedicati ai cani ci sono. Caspita, 3.000 cani? Mostre sì. Favolose. Nazionali, internazionali, pet therapy in diretta, i bambini possono giocare. Gli appassionati, anche che non hanno i cani, sono naturalmente benvenuti, perché è una giornata che veramente può coinvolgere chiunque. Senti, quindi insomma ti sento particolarmente soddisfatto e felice, giustamente, perché dicevi questa iniziativa è freschissima, è partita poco tempo fa. Quando è che è iniziata? L'anno scorso? È iniziata a settembre dello scorso anno. Neanche oggi, un anno? Neanche un anno, sì. Oggi abbiamo presentato i risultati della prima fase che abbiamo portato avanti noi da soli praticamente, e oggi invece naturalmente abbiamo voluto da una parte far vedere quali sono i risultati, ma innanzitutto cercare di sensibilizzare il pubblico e la gente, per cercare di aiutarci a portare avanti l'iniziativa, perché naturalmente più si va avanti più il contributo da parte di tutti è importante. È importante. Infatti tra poco avremo al telefono Manuela Vignolo, che è il medico fisiatra responsabile del progetto, perché sono curioso, no, a proposito di dati, di capire che cosa veramente è successo. E immagino, appunto, chi è malato di SLA, come sappiamo, non è che, certo, se la passa bene, anche soltanto quando gli danno la notizia, no? Perché qualcosa, sì, certo, comincia ad andare, sai che è una malattia che col tempo poi porta a degenerare. È una bruttissima malattia. Sono contento invece che gli animali possano sostenere in un progetto fatto bene questa cosa. Tra l'altro colgo l'occasione anche, no, per raccontare a casa. È vero che il cane che noi prendiamo e ce lo portiamo dentro le mura domestiche ha dei benefici molto grandi, ma è cosa ben diversa fare pet therapy. Cioè tante volte io mi trovo a lavorare, io e molti miei colleghi, con dei cani che sono stati adottati dalle famiglie perché in casa c'è un particolare disagio. Adesso noi stiamo parlando di SLA, ma come sappiamo i cani lavorano anche con i bambini autistici e con mille altre problematiche. Allora, normalmente sono i genitori consigliati dal medico che dicono: adottiamo il cane perché farà bene mio figlio che è, per esempio, autistico. Così, messo parcheggiato in casa così. Il punto è che poi il rischio è che il cane diventi un problema aggiunto anziché qualcosa che sostiene il percorso. Quindi mi raccomando, state attenti e invece fidatevi molto di più di progetti come di quello che stiamo parlando, perché devi avere il cane preparato, il conduttore del cane preparato, e ci sono delle attività specifiche che bisogna far fare a l'ammalato, l'anziano, assieme, cioè insieme all'animale, e questo ovviamente ti risolve anche la questione di: devo adottare il cane, me lo tengo a casa, devo portarlo fuori, devo occuparmi di lui, devo educarlo e via dicendo. Se poi ti capita anche un cane problematico a livello comportamentale, sai che i problemi prolificano. Insomma, quindi perdonatemi la parentesi, però era doverosa per chi a casa si sta magari chiedendo: ah, che bello, allora adotto un cane. Attenzione, che tanto lo tengo. Senti Giacomo, grazie della tua intanto dell'idea che hai avuto, siamo felicissimi che stia funzionando bene. Grazie a voi, e ci teniamo in contatto. Grazie intanto, buona domenica. Grazie a Giacomo, grazie Caramelli. A ciao, ciao, ciao. Arrivederci. Allora, adesso dobbiamo avere già in linea Manuela Vignolo. Manuela? Sì. Eccola, buongiorno. Ciao. O ciao. Meglio, dottoressa, no? Perché dottoressa. Possiamo darci del tu, Manuela? Certo, ma ci mancherebbe. Medico fisiatra responsabile del centro clinico Nemo a Renzano, sì? Ospedale, sì? Colletta. Senti, tu probabilmente ti sei incrociata con Giacomo, che è quello che ha avuto, che ha lanciato l'iniziativa, che voi avete accolto, e ringraziava, e prima ringraziava tutti di aver accolto così bene questa iniziativa, che già neanche a un anno da quando siete partiti c'è già dei risultati ottimi, no? Assolutamente sì, sì, sì, sì. Ecco. Io sono appunto la responsabile di questo progetto, che è stato, diciamo, si è potuto realizzare solo proprio grazie al contributo di Mondo Vicino, Outlet Village, quindi con Giacomo e con l'associazione Vialli, la Fondazione Vialli e Mauro. E il progetto è nato proprio con un carattere scientifico, quindi si è voluto dimostrare che in realtà anche un'attività di fisioterapia e di terapia occupazionale associata agli animali avesse una valenza come il trattamento tradizionale. Ci spieghi, sì, che cos'è la terapia occupazionale? Sì, la terapia occupazionale è una terapia dedicata, diciamo, all'arto superiore, quindi al miglioramento della manualità e alla, diciamo, riacquisizione di funzione quando possibile, o di nuove strategie motorie nel momento in cui non è più possibile utilizzare un determinato muscolo. E quindi questo per far capire a chi ci sta ascoltando, come si traduce nella pratica con un cane? Nella pratica con il cane? Allora, nella pratica è semplice, nel senso che si è voluto semplicemente fare un gesto riabilitativo, che per esempio per un paziente significa dobbiamo allenare la flessa estensione delle dita, quindi chiudere ed aprire praticamente la mano. Allora, anziché fargli fare un esercizio tenendo in mano magari una plastilina o una pallina di gomma, noi utilizziamo il contatto con il cane, e quindi il cane è steso sul lettino e lui, magari il paziente deve fare delle flesso estensione sul, diciamo, nel pelo, oppure deve togliere i peli dalla spazzola facendo proprio dei movimenti di flesso estensione. Così come dei movimenti di prensione lo si possono utilizzare, magari tenendo un bacchettino e toccando i polpastrelli del cane, facendo tipo una pulizia, seguendo il contorno del polpastrello. Ecco. E pensa quindi quanto è importante non soltanto il gesto, ma la motivazione che è dietro. Cioè, se io ho un cane che è davanti, il gesto significa non soltanto apri e chiudi la mano, ma è diretto ad una funzione specifica, che peraltro poi riguarda il prendersi cura di un animale, cambiano i risultati, giusto? Assolutamente, assolutamente sì. Cioè, i nostri tre step sono stati innanzitutto la motivazione, cioè quello che dicevi tu, cioè è un arricchimento motivazionale, e questo è importante. Abbiamo dimostrato che chi ha effettuato il trattamento con il cane, quindi una terapia assistita con animale, non ha perso nulla rispetto a chi ha eseguito un trattamento tradizionale, sia di fisioterapia che di terapia occupazionale. Cioè, il miglioramento all'interno dei due gruppi, il gruppo di controllo che ha eseguito terapia tradizionale e il gruppo pet therapy, hanno avuto un miglioramento assolutamente uguale, e quindi questo è stato un altro importante step. E la terza cosa che noi abbiamo voluto vedere è bene la motivazione, ma poi il paziente durante l'ospedalizzazione ha anche un miglioramento, diciamo, del suo stato di umore. Emotivo proprio. Quindi non ci dire nulla, facci indovinare. Abbiamo avuto un risultato. Certo. Si capisce che poi è vero, c'è assolutamente bisogno di persone come Manuela Vignolo, che poi vadano anche a misurare, monitorare queste cose e quindi riempire le cartelle di dati, perché poi scienza si dice se non lo puoi misurare non esiste. Però intuitivamente noi sappiamo, effettivamente possiamo intuire che se c'è un cane lì, l'umore delle persone migliora. Quindi, sono contentissimo. Senti, Manuela, tu ci puoi raccontare anche, adesso facciamo un attimo un break e poi riprendiamo subito la chiacchiera con te, ma tu poi ci puoi raccontare magari un caso particolare che ti ha colpito in modo particolare? Certo, assolutamente. Ok, allora resta lì che riprendiamo fra pochissimo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Benissimo, stavamo parlando con Manuela Vignolo, medico fisiatra responsabile del progetto Confido Quattro Zampe in Corsia, che ha messo sta facendo praticamente pet therapy ai malati di SLA. E Manuela, sentiamo proprio un tono felice, no? Questo qui era un tuo sogno, ci stavi raccontando durante la pausa? Sì, è un mio sogno fin da diciamo dall'inizio, da quando mi sono laureata in medicina, ho scelto la specialità in fisiatria, era proprio il mio sogno portare i cani in palestra, cioè portare nel trattamento riabilitativo. Favoloso. E ho eseguito, diciamo, tanti passaggi, e la formazione logicamente anche riguardo a questo, fin dagli inizi dei trattamenti assistiti con animale, per poi ritrovarmi, diciamo, in una giornata come oggi a vedere quello che siamo riusciti, grazie non solo di certamente il mio contributo, ma tutti, tutto il reparto, tutta la mia equipe, l'altro, il fisiatra, diciamo, accanto a me, dai fisioterapisti, la terapista occupazionale, però vedere cosa si è riusciti a realizzare è stato da pelle d'oca. Emozionante. Emozionante. Cioè, voi ci avete lavorato per tutti questi mesi, però un appuntamento nel quale uno rivede con una visione d'insieme tutto quello che si è fatto vi ha resi felici. No, perché poi ci stava dicendo prima che lei vede la gioia anche negli occhi, a parte dei pazienti, ma della famiglia. Della famiglia, tanto, cioè, tanto. Dei bimbi, dei genitori, dei figli, diciamo sono pazienti con patologie anche gravi, ecco. E ritornare e andare in un reparto ospedaliero e rivedere la propria mamma, il proprio papà che risorride e partecipare con lui a questa gioia è stato qualche cosa, insomma, di bello e di importante, sì. Sempre anche su figli che non amavano i cani, cioè, ecco, figurati, vedi. Per cui ho proprio, a parte, diciamo, chi è, diciamo, più portato, no, a questo, certo. Ma anche su persone che magari all'inizio le vedevo molto quando rigida. Hanno visto i genitori o i parenti così si sono proprio aperti, vedi quanti regali ci fanno, davvero siamo debitori nei confronti dei cani. Senti, prima ti ho detto, hai una storia che ti ha colpito particolarmente, che ci vuoi raccontare? È vero, sì racconto questa storia che, diciamo così, è abbastanza particolare, perché facevamo trattamento con un paziente e il cane era non particolarmente vicino, ecco, non entrava in diretto contatto con il paziente. Mm-hmm. Fino a quando di sua iniziativa ha preso e ha si è portato lui stesso molto molto vicino a questo paziente, per cui all'inizio abbiamo avuto un po', eravamo un pochettino più cauti, ecco, mm-hmm. forse noi. E passa la giornata, insomma, ci siamo lui molto orgoglioso di questa cosa, invece il paziente, il giorno dopo arrivo in reparto, lui mi dice: dottoressa, le devo parlare. E io la prima cosa che ho pensato è detto: adesso magari non mi dirà, guarda, mi è venuto troppo vicino, non mi sono trovato bene, eccetera. E invece mi dice: io non ci ho dormito tutta la notte e sostanzialmente ho pensato che voi dovete proprio lasciarmi venire il cane vicino, neanche il telo sulle gambe, neanche tutte queste barriere, io devo poterlo toccare e lui deve poter toccare me, perché vede, dottoressa, ha fatto così perché mi vuole proprio bene, vuole stare vicino a me. Ah, e allora non dobbiamo impedirglo. Io ero emozionatissima. Ma vedi come l'affettività muove un sacco di cose, bellissimo. Sì. E quindi, quindi dopo avete provato a fare così, giusto? Sì, assolutamente. Sì, abbiamo diciamo modificato il setting, percorso, un po' l'approccio, e lui è orgogliosissimo di questa cosa. Sì, è veramente fantastico. Molto, molto bene. Contento. Ecco. Bene, siamo felicissimi, Emanuela, di aver potuto ascoltare direttamente e sei riuscita a trasmetterci anche questo entusiasmo, anche il modo grazie. In cui lo racconti, quindi è sempre bello portare avanti queste iniziative, noi siamo totalmente favorevoli a questo certo. scambio, a questa relazione col cane che ci può solamente che migliorare. Noi abbiamo cercato fino adesso la Clotilde Trinchero, che è per la pet therapy, appunto, che è medico veterinario, non siamo riusciti a trovarlo, si vede che lì voi... No, perché è interessante adesso capire come vengono preparati i cani, nel frattempo che magari riusciamo a contattarla, speriamo, qualcosa l'anticipo io, visto che qualche cosina nei corsi di pet therapy le insegno, e vediamo un po' che magari poi non riusciamo a parlare con lei proprio di questo progetto, perché è quello che interessa a me. Grazie Emanuela Vignolo. Grazie Emanuela. Infatti, ok, grazie a voi. Buon lavoro. Ciao. Grazie buon lavoro. Tante per l'assunto, grazie. Figurati, ciao, arrivederci. Ciao. Allora, dicevamo, cioè, il cane da pet therapy va preparato come si deve, ma deve anche avere delle caratteristiche particolari alla base. Certo. Perché questo? Perché poco fa la dottoressa Vignolo ci parlava, per esempio, del fatto che questi cani sono lì e si fanno accarezzare, e rimangono fermi, piuttosto che il cane che va a salutare il paziente, come ha detto questa signora che ha emozionato, no, in questa storia, perché si vedeva che lui voleva proprio bene. E allora questi cani qui devono avere, è necessario che abbiano un particolare profilo caratteriale e una determinata preparazione. Mi dicono che abbiamo quindi con siamo noi... Siamo riusciti a trovare Clotilde Trinchero. Pronto? Pronto. Pronto, buongiorno. Buongiorno Clotilde. Buongiorno Clotilde. Grazie infinite dell'invito. Buongiorno. No, grazie a voi. Allora, medico veterinario, etologa e presidente di Assea Onlus, sì, giusto? Giusto, giusto. Allora, noi abbiamo già fatto una chiacchiera con Giacomo Caramelli, che ha avuto l'idea, sì, con Manuela Vignolo, il medico fisiatra responsabile. Ora mancava solamente il suo punto di vista. Si sente, sì, un sottofondo da conferenza stampa. infatti, chiedo scusa, ma siamo ancora nella location e è andato tutto molto bene, siamo contenti. Una conferenza stampa un po' particolare, con i cani come protagonisti. Ah, fantastico! Ma infatti noi ci stavamo chiedendo, come immagino a casa, ma il cane che partecipa a uno di questi progetti, che caratteristiche deve avere, come viene preparato? Allora, innanzitutto valutiamo dall'origine se può diventare un cane da interventi assistiti. Deve avere attitudine e capacità, perché solo con i cani che presentano queste caratteristiche lavoriamo in modo che siano contenti di partecipare alle nostre cose, di fare il lavoro con noi. Il Perfetto. Cane deve essere felice sempre. Vedi, sempre, chiedimi se sono felice anche in questo caso. Infatti, sì, lo sono. Se preferisse fare un'attività sportiva o fare un'indagine di ricerca, essere un cane con fare altre cose insieme all'uomo, lo si lascia libero, non forziamo, per questo non ci sono addestramenti particolari. Il cane rimane con la sua essenza e il suo carattere. Solo così riesce ad avere un rapporto con il paziente a tu per tu, perché si sente libero di avere il rapporto, lo desidera lui. Ah, benissimo. Ma se una persona, per esempio, ci sta ascoltando in questo momento e dice: ma quanto mi piacerebbe con il mio cane partecipare a una cosa del genere, cosa dovrebbe fare? Allora, io come etologa ho pensato a dei test per valutare attitudine e capacità, che vuol dire vedere se il cane ha queste cose. Non vuol dire assolutamente cane bravo o cane nemmeno no, bravo. Certo. Ecco, perfetto. Allora, se il cane ha le attitudini, si può iniziare un percorso. Noi a Torino e in Liguria facciamo un corso di, l'abbiamo chiamato unità cinofila, per interventi assistiti. È un percorso, c'è un primo step di 50 ore, poi si può continuare perfezionando sempre di più per arrivare al cane da interventi assistiti, che come minimo per fare le terapie a 3 anni, 3 anni e mezzo. Ecco, è importante, no, l'età? È importante, l'età. Sì. Può iniziare da giovane il tutto, però è il cane adulto, cosciente, okay, consapevole di quello che fa. Non chiediamo e non approfittiamo mai di circostanze o cose diverse. Il rispetto per l'animale è completo e totale, sempre. Splendido, splendido. Bene, grazie, è stata la lasciamo, sentiamo in sottofondo che c'è ancora voglia di confrontarsi in questa conferenza stampa, che è stato un successo. Ci hanno detto anche Emanuela e Giacomo che è partita solamente a settembre, non è passato nemmeno un anno, quindi vi auguriamo di continuare così, sempre meglio. Molto gentili, siete fantastici voi. Grazie, grazie Clotilde Trinchero. Tutti insieme con gli animali. Grazie, grazie Clotilde. Grazie, grazie. Arrivederci. Vedi, è interessante questa cosa delle attitudini del cane. Ho trovato particolarmente interessante, ed è un argomento che potremmo sviluppare poi, se vuoi, più in là, una ricerca fatta da Richard Davidson su delle aree cerebrali in umana che corrispondono a particolari dimensioni dello stile emozionale. Io le stesse dimensioni le ho riportate nel cane ed è molto interessante. Queste dimensioni sono resilienza, attenzione, autoconsapevolezza, intuito, sociale, contesto e prospettiva. Cioè, che l'abbiamo sia noi che il cane? ce le abbiamo sia noi che il cane, cioè sia noi che il cane abbiamo... Noi che il cane, ma non è detto solo noi il cane, magari anche altre specie animali, no? Anche altre specie animali. Okay. Diciamo che la cosa eccezionale dello studio fatta da Davidson è che lui ha trovato una corrispondenza fisica nell'organo cervello rispetto a queste dimensioni. Cioè non sono gli altri profili fatti in psicologia, sono sulla base di quello che posso osservare in un paziente. Mm-hmm. Lui invece ha trovato una correlazione tra queste dimensioni che io posso osservare, mm-hmm, e delle aree cerebrali. Mm-hmm. Ed è nuova come cosa, no? Non c'era mai stata prima. Però possiamo ben capire come la resilienza sia, per esempio, una cosa che possiedono sia gli animali che l'essere umano, no? O meglio, sia l'essere umano che parte di questa ricerca, sia i nostri amici animali. Ti ricordi? Preferivo sia gli animali che l'essere umano. Va bene. Però ti ricordi resilienza, no? Che cos'era? È il contrario della debolezza. Della fragilità. Ah, della fragilità. Cacchio, ero convinta di averla memorizzata, adesso invece della fragilità, perché la debolezza è un'altra cosa. Perché abbiamo parlato, io e Rosetta scherziamo sempre su questa cosa della resilienza, perché ogni tanto lei dice, oh, non mi entra in testa la definizione. Ci ho messo 3 anni a memorizzarlo e ancora... manco bene, appunto, e neanche bene. È il contrario della fragilità. Il contrario della fragilità, ma vuol dire che perché cosa? Sai perché mi fa strano? Perché la parola resiliente è una parola dolce, delicata, resiliente. E rappresenta una forza. Sì, pensa che è stato che mutuato dalle caratteristiche dei metalli. Cioè il metallo quando tu lo pieghi, no, è così. No, sto guardando Miriam e Peter, come dire, poi come fai a non avere delle reazioni quando parla così, Vaira? Se figurati, però a parte questo, è la capacità di far fronte ad eventi pressanti, stressanti e di recuperare velocemente da essi. Ed è proprio qui, questa radio, che tempo fa venivano spiegate le 6 dimensioni dello stile emozionale. E pensate, è stato tracciato un parallelo tra le 6 dimensioni negli esseri umani e quelle dei nostri amici a 4 zampe. Oh, ma lo vogliamo intervistare, Alberto Angela? Davvero, o no? Dobbiamo, Miriam, mettiamolo in agenda, dobbiamo cercare Alberto o Piero? Alberto. Beh, Piero sarebbe tutte e due. Tutte e due, becchiamo papà e figlio in un blocco solo. Io sono cresciuto con quei documentari. Sì, io vi vedo. No, anch'io, fantastici, meravigliosi. Sempre meglio conoscere gli animali della natura così. Dai, tra poco continuiamo a parlare allora di queste 6 dimensioni. Ok. Pausetta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, ci siamo fatti. Stiamo parlando delle 6 dimensioni, ma c'è una news che ci sta facendo discutere, allora ve la buttiamo proprio lì. Da Repubblica.it del 24/5/2017, la scissione animalista, il nuovo partito spacca destra e sinistra. Diverse sigle. No, scusami, del 22 maggio io leggo. 22/5? Ah, 22, hai detto 24/5, credo. Ah, comunque, scusa, andiamo avanti. Diverse sigle storiche aderiscono al movimento fondato da Brambilla e Berlusconi. Gli ambientalisti ci siamo fatti sfilare un tema nostro. Ecco, bravi ambientalisti, era un tema vostro, e perché non ve ne siete occupati prima? E che cacchio avete fatto fino adesso? Esatto. No, perché no? Perché diciamola questa cosa degli animali, ma scusa, perché è diventato importante adesso? Perché c'è un partito che nasce su questa cosa qua? Se, adesso entriamo nel tema, perché poi secondo me il movimento animalista non è né di destra, né di Berlusconi, né di nessuno. Dovrebbe però, essere comune. Allora il problema è che quanti voti mi porta un certo tema, e questo è il punto vero. Quanto perché riesco a rimbambire gli italiani, cioè, che mi vedono con un animale, un cucciolo, esatto, in braccio, cioè, allora diventa votano. Importante adesso che qualcun altro fa un partito? Eh sì, ve lo siete fatti sfilare e hanno fatto bene, perché altrimenti non ve ne sareste mai occupati, porca di quella... Attaccare! Yeah! Dai, attaccare! Lotta continua! No, cretino! Che pirla che è. Ma perché? Adesso no, mi si è, anche perché mi poi si è scaldato no, perché il gli ambientalisti poi sono notoriamente di sinistra, e lì secondo me hanno nuovamente perso dei voti, perché l'ambientalismo e l'animalismo non devono essere né di destra né di sinistra. Dovrebbero essere, come dice Gandhi, che il, come si dice, la crescita morale di un popolo. Non si, la crescita. Non è. E che cazzarola è? La moralità di una nazione può essere misurata. Si misura da come vengono trattati gli animali. Qui ecco. Non si tratta di volere più voti piuttosto che non. Qui si tratta. Che c'è? Sentiamo che Peter ce l'ha. La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono valutare dal modo in cui tratta gli animali. Mahatma Gandhi. Appunto. Questo anche, è, anche la, dovrebbe essere anche questo. Il progresso morale di un individuo si può misurare da sì, quello, non soltanto certo, di una nazione. Si parte dal singolo individuo per arrivare poi. Cioè, qui mi vengono leggendo questo articolo, poi adesso ognuno si sputa addosso. Tu sei stato così, tu sei un deficiente. Tu cosa succede? Questa Margherita D'Amico dice. Sui voti degli animalisti Matteo Renzi ci ha letteralmente sputato sopra, preferendo il consenso delle lobby dei cacciatori. Ecco. Cioè, capite qual è il punto? Loro si vogliono dividere i voti, non pensano agli animali. Chiunque sia di queste persone qua lo fa solamente per accreditarsi una poltrona. A me viene allora, da pensare. No, scusami, sì. Viene da pensare. Io questo non lo posso sapere. No, certo, però è che è sbagliato, se così fosse, strumentalizzare gli animali. Però posso dirti una cosa, ma almeno se ne parla. Cioè, sì, sì, vuoi cominciare a strumentalizzarlo? Sì, però, fallo pure, Angelo, piuttosto che non si faccia nulla. Finalmente un partito che si occupa dei diritti degli animali. E che caspita, anche perché soltanto in quel modo la politica, l'economia e la finanza può diventare realmente fatta bene. Deve fondarsi sull'etica, deve essere al servizio dell'etica la finanza, la politica e l'economia, non il contrario. Io sono a disposizione di chiunque usi l'etica nel rapporto e nel far sì che si rispettino i diritti di tutti gli animali in questo paese, in Italia, come altri paesi già fanno, per esempio vedi l'Olanda che è molto avanti in questo. Sono disposta ad appoggiare al 1000% chiunque propone qualcosa in questo un senso, un programma in questo senso. È ovvio che ti fa un po' girare le balle, se ti viene in mente che magari è soltanto strumentalizzazione. Perché no, qual diventa è il problema? Solo strumento politico di propaganda, poi sì. Eh? Perché qual è il problema? Che addirittura si pensa possa spostare questa cosa al 20% dei voti, fino certo, al 20% dei voti. È ovvio che è tanta roba. Allora voi sappiate, animalisti, che se votate PD per esempio state votando a favore di un movimento politico che veramente ci ha sputato sopra i diritti degli animali, no? E che appoggia molto caccia, continua ad appoggiare la caccia. Sì. Bisognerebbe fare una lista contro le false associazioni, per esempio, che purtroppo oggi controllano il 75% del business del randagismo. Sì, perché queste ci sono false associazioni, fare. Cosa vuol dire? Perché per la legge non puoi più tu privato occuparti di questa cosa, devi essere una società o un'associazione. Allora molti fanno la finta associazione con la mamma, il nonno, eccetera, certo, non gliene frega nulla dei cani e impedisce ai volontari di entrare in canile, li vuole tenere lì, non denuncia le morti e si prende un sì, sacco di soldi. Sì, purtroppo ne abbiamo parlato, ne abbiamo tanti. Bisognerebbe stabilire delle regole chiarissime che affrontino veramente il problema, per esempio come abbiamo parlato di traffico illegale di animali, oppure addirittura di canili lager, che purtroppo è vergognoso dirlo, ma in Italia ce ne sono tanti, in Sud Italia purtroppo ha un primato vergognoso. Sì, che poi la cosa del randagismo prima o poi mi piacerebbe sviscerarla bene, perché il punto qual... ne abbiamo anche parlato in passato, sì, però sì, il punto qual è? Attenzione associazioni, perché oggi ci sono veramente delle associazioni capitanate da imbecilli che prendono i cani randaggi a tutti i costi e li devono infilare in un cazzo di box di canile. Pensa, perché così lo mettiamo in sicurezza. Certo. No, state attenti, perché tante volte il randaggio fa una vita più che dignitosa e non va nessuno. Messo in un canile come un recluso. Non va per forza spostato e preso dalla Sicilia, dalla Puglia e portato ai canini del nord. Sì, state attenti a quello che fate. Okay, io so di un cane che è stato rubato, letteralmente rubato, ad una persona che era il lattaio. Si presenta il lattaio che ha le mucche, una piccola, piccolissimissima fattoria. Il cane era libero, non era microchippato a causa del comportamento delle cose. Però che cosa fai? Lo fai microchippare, gli fai una multa. Non è che gli porti via il cane. Questo cane è stato rubato e portato nel nord Italia e non c'è stato più verso di andarlo a recuperare. Non perché? Perché l'animalista del cazzo di una... non so che se non ci mette, capisce un cavolo. Che non capisce nulla. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto poi questo lattaio qua? Se ne è preso un altro di cane, ovviamente. Ma poi quel cane lì era felice, era un cane felice, viveva libero, poteva andare e tornare, viveva lì e non vedeva l'ora che tornasse questo signore lì. Invece che cosa hanno fatto? L'hanno preso, l'hanno portato e sbattuto in un'altra famiglia. Che chissà come lo tiene. E chissà come lo tiene. Il problema però qui non è così facile, Angelo, perché riconoscere un animale per strada, che sia un animale felice, che è randagio, è facile, ma che... perché fai un'indagine, è facilissimo. Vabbè, quelle persone sapevano addirittura sa di chi fosse il cane, perché si sa che quel cane è lì. In un paese tu lo sai e basta che tu chiedi un pochino ai vicini di chi è quel cane. E poi cosa fai? Lo tieni lì, non è che lo prendi, lo metti in un furgone, in una macchina e fai... Poi questi furgoni che si fanno pagare 50 euro a cane, ne mettono stipati magari 60 alla volta e alcuni muoiono. Cioè, guarda ragazzi, qua dobbiamo veramente scoperchiamo un vaso di Pandora. Comunque, sì, bene la creazione di un partito politico. Se non vi sta bene forze avverse, fatene uno voi. Secondo me non dovrebbe essere né di sinistra né di destra, ma almeno qualcuno che si occupi dei diritti degli animali, perché occuparsi di qualcosa che va bene anche per gli esseri umani. Ma avete fatto incazzare il Vaira? No, è passione questa, non è rabbia. No, lo so, lo so. Allora, continuate a scriverci a Chiedimi se sono felice @radio24.it. Noi risponderemo alle vostre mail, vi rintracciamo, magari fate una chiacchiera con noi. Chiunque volesse parlare con noi, anche chi non è d'accordo con quello che diciamo io, Angelo, o quello, noi siamo stradisponibili a confrontarci amiamo con voi. Amiamo il confronto. Io e Varia ci confrontiamo ogni allora, giorno. Allora, è rimasto un minuto. Non so, prima volevamo parlare delle sei dimensioni dello stile emozionale. Siamo partiti a parlare. In un minuto non ce la facciamo. Volevamo parlare anche dei problemi dei denti dei cani e vedremo di riuscire a parlarne la prossima volta. 30 secondi, sappiate che anche i cani soffrono di tartaro, sì, e si può fare una detartasi. Sì, no, ma che purtroppo provocano anche dei problemi trascurati con gengive sempre infiammate, arrivano a provocare anche problemi al cuore, quindi non è una cosa da sottovalutare. Me ne parleremo in un modo più approfondito nelle prossime puntate. Intanto vi auguriamo buonissima domenica. Buona domenica. Raccomando, a presto da Rosita Celentano e Angelo Vaira.